Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Settembre 2013. Ah, è proprio una domenica fortunata, perché iniziamo le nostre trasmissioni, vero Antonio? Sì, ci allora, siamo, puntuali. Ecco, ciao Antonio. Ciao Gesi. Bentornato. Bentornato anche a te e soprattutto alle nostre ascoltatrici ed ascoltatori. Ascoltatori. Comunque una buonasera a tutti e incominciamo, a Dio piacendo, un altro anno di trasmissioni. Come ospiti in studio avremo un ospite virtuale da Bassano e un ospite in studio che è venuto a trovarci e ci leggerà delle belle poesie, che è la signora Nadi Vettori, che salutiamo. Buonasera, buonasera Nadi. Buonasera a loro, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. È con vero piacere che ti ospitiamo nella nostra trasmissione. Adesso diamo la parola al nostro Antonio. Allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici ascoltatori in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Noi vi ricordiamo naturalmente il nostro indirizzo internet, che è bluradioveneto.it, e ricordiamo anche che è possibile il download e l'ascolto in streaming della trasmissione, e un caro saluto al nostro regista come Andy, sempre naturalmente. Caro regista, ci devi sopportare ancora una volta. Allora Antonio, abbiamo detto che abbiamo un ospite virtuale che è di Bassano, allora a te la parola. Certo, allora un ospite che ha un cognome che induce, come dire, un rispetto, induce un certo qual timore se vogliamo, è la signora Elide Imperatori Bellotti. Elide Imperatori Bellotti, nata a Roma e residente a Bassano del Grappa, è giornalista e scrittrice, animatrice e docente. Si confronta da sempre con la scrittura e la gestualità, con poesia e prosa e la loro estensione scenica. Vive la cultura veneta con amore esclusivo per questa sua terra di adozione dagli anni 50, per la sua gente, le sue tradizioni, gli usi e i costumi. Ha profuso per lunghi anni nell'insegnamento elementare la sua rigorosa preparazione, vivacizzata da grande fantasia, costantemente aggiornata alla luce di nuove metodologie e di una didattica al passo con i nuovi tempi. Nel 79 promuove con il direttore Fernando Rigon la sezione didattica del Museo Civico di Bassano, per il quale, con l'aiuto di esperti, stende itinerari e studia giochi. Nell'83 pubblica le commedie Davanti a un'ombra e Spisseghi de fantasia, Sciantisi de magia, rappresentate già dal 76 con un vero successo. Nell'85 dà vita al gruppo culturale Le Arti per Via, con pagina artistica che, in vero teatro di strada, ricostruisce una giornata di lavoro di quanti andavano per via, proponendo il loro mestiere tra gli altri. Motivata da rigorosa ricerca storica nei costumi, nell'oggettistica, nel linguaggio, la formazione artistica in questi anni ha dato vita ad oltre 300 spettacoli in Italia e all'estero, portandosi oltreoceano in Canada, Messico, Argentina, Brasile, Stati Uniti e Australia. Nell'87 pubblica Le Storie della Pieve, a narrare le origini di Bassano su base rigorosamente storica, con preziosa prefazione della medievalista Gina Fasoli. Nell'89 vince il premio nazionale di poesia Arpalice cum Ampertile di Marostica, con la raccolta di filastrocche Il Gazzettiere Marino. Nel 91 dà alle scene E stamparò Santi e Madone, dedicata alla grande saga familiare dei Remondini. Nel 92, in occasione della mostra Jacopo Bassano, allestisce il quadro vivente ed animato La Festa di Lucia Soranzo, con diretta ispirazione ad un telero del Museo Civico, che il grande Jacopo dipinse nel 1536. Dall'89 è attiva collaboratrice de Il Giornale di Vicenza, con rubriche culturali, con interviste e recensioni di concerti, prosa, balletti e lirica per la pagina degli spettacoli. E nel 98 il clou della sua produzione La Ballata del Millennio, spettacolo in 8 quadri a ripercorrere i 1000 anni di storia di Bassano, rappresentato nei luoghi stessi ove fu vissuta, con il coinvolgimento di circa 500 figuranti. in occasione della celebrazione del millennio, in collaborazione con l'assessorato alla pubblica istruzione, sotto il titolo Bassano, monumenti ed avvenimenti, motiva ampiamente il lavoro di ogni ordine di scuola, muovendone l'interesse intorno a quanto resta a monito della città stessa in opere insigni. Tra il 97 e il 98 pubblica storie legate a luoghi e monumenti cittadini sui diari scolastici destinati ai ragazzi delle elementari, a cura dell'Associazione Genitori Italiani, Scuole Elementari e Materne e del Comune di Bassano. Elide Imperatori Bellotti è stata vicepresidente ed attiva collaboratrice della Pro Bassano, della quale dirige il giornale e cura le pubbliche relazioni. È socia onoraria dell'Inner Wheel bassanese, membro di associazioni culturali e sociali quali l'Ande, il Cenacolo, gli Amici del Museo, gli Amici del Teatro, Anni d'Argento. Nel 2002, per la mostra Ezzelini, signori della marca nel cuore dell'impero di Federico II, progetta i laboratori didattici. Scrive 20 strisce per un tiranno, storia in rima di Ezzelino III, a smitizzare con lieve ironia il personaggio, illustrata a fumetto da Michele Lacchin, realizzazione che ha avuto l'onore di figurare con vero successo nella mostra stessa allestita a Palazzo Bonaguro dal settembre 2001 al gennaio 2002. Nel novembre 2002 riceve il Premio Nazionale Città di Marostica, settore poesia per l'infanzia, 15ª edizione, con l'opera Filastrocche tra sole e luna. Nel 2003, in occasione della mostra dedicata ad Antonio Canova tra Bassano e Possagno, ha dedicato ai bambini una rilettura della vita del grande autore, atta a far vivere giocosamente la stessa splendida esposizione. Nel 2005 pubblica Le storie della città murata, illustrate da Marilisa Bizzotto, con profonda prefazione del professor Giorgio Pegoraro, giudicate da esperti del mondo della scuola tali, per contenuto e modo di scrittura, da essere adottate a progetto di studio per quanto riguarda la storia stessa di Bassano. Elide Imperatori Bellotti è iscritta alla SIAE dal 76 e all'Albo dei giornalisti dal 91, è stata insignita della benemerenza del Museo Civico nell'83 e Cavaliere della Repubblica dall'89 per l'opera svolta in ambito sociale e culturale della città. Nel maggio 2005 l'Associazione Nazionale Nonni ed il Consiglio Regionale Veneto le conferiscono menzioni speciali per il contributo alla cultura per l'infanzia. È insignita del premio Città di Bassano del Grappa per l'anno 2010 in occasione della festa di San Bassiano il 19 gennaio 2011. Ed ora tiro un sospiro, naturalmente dopo testa mole straordinaria, mamma mia, ma di notizie eccetera, è eccezionale. È una persona importantissima. E passiamo alla prima canzone. Va bene, allora... Prima di tutto ci ascoltiamo, logicamente parliamo di Bassano, e dal coro degli Alpini ci ascoltiamo Sul ponte di Bassano. Incatena il cuore, che mi incatena. quelli che mi vanno. Ed eccoci di nuovo in studio e fra qualche secondo avremo in linea la signora Elide Bellotti Imperatori. Pronta? Pronto, buonasera. Signora, buonasera. Buonasera signora. Ben trovata. Grazie. E benvenuta nella nostra trasmissione. Grazie per questo saluto così gentile, quindi ai nostri cari ascoltatori tutti buonasera, sono felice di potervi parlare, così come vi è stato annunciato, di un territorio ameno e dolce, quale quello della nostra Bassano del Grappa, nel quale vorrei condurvi mano nella mano in una mattinata d'autunno. Benissimo, e noi siamo qui tutte orecchie ad ascoltarla. Grazie, forse per questo mio desiderio ne godremmo insieme la silenziosa e azzurrina bellezza dei monti lontani, il verde degradare delle sue colline verso l'attiva pianura, lo scorrere del suo fiume, nastro d'argento sotto i suoi ponti. Una cittadina deliziosa dunque allo sbocco della valle, che noi bassanesi abbiamo sempre pensato, per la dignità dei suoi monumenti, le ariose piazze, i severi palazzi, quasi la portineria di quella Venezia tanto conosciuta e amata nel mondo e tutta aperta al lontano oriente. Vi sorprenderebbe certamente il saluto cortese di molti nell'aria chiara, il sorriso che scaturisce nell'augurarsi scambievolmente il buongiorno di rito. Bassano è così, per chiunque vi si accosti, bella, chiara, elegante e gentile. E accogliente. Parlarne quindi non può che essere motivo di gioia, certo, per chiunque si accinge a farlo e mi auguro anche per chi ascolta. Beh, con un personaggio come lei, signora, siamo in buone mani. Ecco. Personaggi no, buoni cittadini, ecco, per essere buoni cittadini io credo che bisogna amare i luoghi dove si vive. Certo. Benissimo, allora a lei la parola. Grazie. Allora niente, di che cosa vogliamo parlare? Di questo territorio? Certamente, c'è scritto la meno territorio di Bassano. Sì, e forse appunto proprio della sua storia, che ha lontanissime radici nel tempo, che affondano addirittura al XII secolo a.C. Sono tanti gli anni, se ben pensate, in tempo di preistoria e protostoria. Certo. Perché sì, già allora questi ameni luoghi furono abitati e la storia, anche se non scritta, ci viene narrata dai resti a caso rinvenuti nel territorio di Angarano di una necropoli o città dei morti. Fu certo in una mattina d'autunno, così come in questi giorni, il ritrovamento di alcuni strani frammenti che comparvero agli occhi di un contadino che stava arrando. Sembra di vederlo giungere ansante dal suo padrone mostrando quanto trovato. Paron, verde, cosa può essere sta roba che la viene su quaro? Il padrone, che era un uomo molto più colto del suo povero mezzadro, mezzadro, ecco, prese in mano questi cocci d'argilla che lo sorpresero molto e che naturalmente suscitarono anche la sua curiosità. E fu così che, ed era il 1894, che l'esistenza di un campo diurne fu attentamente documentato dallo studioso Paolo Orsi. Ma a questo primo nucleo di ritrovamenti, ceramici e bronzei, se ne aggiunsero altri tra il 1926 e il 1927 per uno scavo sistematico che fu fatto e seguito con molta attenzione dal sovrintendente alle autorità, alle antichità di allora, il dottor Ettore Ghislanzoni. I corredi tombali, oggetto di grande studio, furono poi restaurati e portati in museo. Materiale fittile, urne cinerarie contenenti corredi, quali oggetti di bronzo tipo spilloni, fiboli, anelli, armille, cioè piccoli braccialetti, rasoi, ma anche fusarole che venivano usate dalle donne per filare la lana, a caratterizzare ogni volta, quindi in modo completamente diverso, anche il sesso del defunto. Dal tutto scaturì la visione di una comunità che viveva in capanne, cacciava, pescava, allevava pecore, aveva contatti attraverso il fiume con altre comunità. Infatti, poiché a Bassano non esistono e né mai sono esistite delle miniere, gli oggetti di ferro e bronzo giungevano allora da altre destinazioni. Il rito della sepoltura era allora preceduto dall'incenerimento del defunto, le cui ceneri poi venivano raccolte e poste nelle urne. Queste, disposte in cerchio, raggruppavano certamente i defunti di una stessa famiglia. Se resta una città dei morti, è testimonianza vera di uomini vivi attivi nel territorio. Naturalmente. Ecco, scaturisce subito una domanda: ma dove saranno finiti? Ah, chi lo sa, forse un'epidemia, forse una migrazione spontanea, forse la distruzione ad opera di nemici. Ma non è una storia scritta, però questi oggetti di tanto valore narrano di quel tempo lontano e li possiamo ritrovare, quando vogliamo, nel nostro museo civico, nella bellissima esposizione della sezione preistorica protostorica. Deve essere interessantissimo. Sì, molto interessante. Sì, infatti sì. Noi ne abbiamo fatto oggetto negli itinerari del museo civico destinati alle scuole, proprio di uno degli itinerari più interessanti, perché i ritrovamenti appunto della città dei morti poi si aprono a ventaglio a dare proprio l'ispirazione e l'idea più completa di tutte le persone che sono vissute già a quel tempo nel nostro territorio. È chiaro che questo ameno territorio, poi soprattutto per l'abbondanza di acqua dolce, fecero sì che molti villici, molte persone si dedicarono a lavorare nella terra, trovandovi quindi una vita interessante e che fece riferimento come sociale e come religione ad una piccola pieve sull'alto del colle che domina ora ancora Bassano e che era chiamata Santa Maria della Plebe. Questa chiesina appunto faceva come da richiamo per tutti i villici all'intorno e la pace di quel tempo, forse il senso del lavoro che vivevano questi villici sparsi un po' tutti all'intorno tra le colline e la pianura, veniva però turbata molto spesso dalle scorrerie dei barbari. Voi sapete che i valichi dell'est sono molto agevoli da essere superati. Quindi sì. Ecco, i barbari dilagavano proprio in questi luoghi, da questi valichi, e qui venivano appunto da est, in particolare gli ungari, che erano tozzi, incivili, neri sì. di capelli, con i visi tutti come rovinati, perché si tagliavano le gote per evitare che crescesse la barba, chi non la voleva. Sì, sì, sì. E soprattutto gente poco urbana, avevano le gambe storte dal gran cavalcare. Perché, ecco, ancora oggi le praterie ungheresi sono famose per i loro cavalli. Ecco, avevano dei cavallini velocissimi, no? Sui quali cavalcavano. Naturalmente queste scorrerie degli ungari venivano in certo modo annunciate da fuochi sulle colline, da voci che rimbalzavano ripetute: gli ungari, sono qui gli ungari. E allora gli uomini e le donne che potevano fuggivano verso le colline, verso la palude dove c'erano degli anfratti, a nascondersi per non essere preda di questa gente. E purtroppo però tutto quello che era il loro vivere, diciamo, gli inermi dovevano per forza perire in queste cose, no? E soprattutto tutto ciò che era la loro ricchezza, il loro sopravvivere, veniva completamente razziato, distrutto, direi che noi possiamo così fermarci un attimo per la seconda così canzone, così si riposa almeno anche la signora, perché altrimenti benissimo non... allora andiamo al secondo brano e ci benissimo. Sentiamo più tardi. Allora, benissimo. Il secondo brano in programma è cantato da Ippo ed è 29 settembre, siamo in tema. Seduto in quel caffè io non pensavo a te. Guardavo il mondo che girava intorno a me, poi improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio lei stretto come se non ci fosse che lei. Vedevo solo lei mi son svegliato e sto pensando a te. Ricordo solo che ieri non eri con me. Il sole ha cancellato tutto, di colpo volo giù dal letto e corro via, telefono e parlo, rido e tu, tu non sai perché t'amo, t'amo e tu, tu non sai perché parlo, rido e tu, tu non sai perché t'amo, t'amo e tu, tu non sai perché t'amo, rido e tu, tu non sai perché. Ecco, abbiamo ascoltato i Pooh e adesso abbiamo di nuovo al telefono la signora Elide Bellotti Imperatore. Ecco, ci siamo ancora qui. Eccoci, ecco, proprio con il piacere di questo, così, di questo narrare, ecco, che ci riporta tanto indietro nel tempo. È molto bello, ecco. Complimenti. Comunque, signora, complimenti. Grazie. Allora parlavamo appunto di come poi la vita scorre in questi luoghi, cioè a parte il ritrovamento del XII secolo avanti Cristo, poi i villici vivono veramente bene, perché c'è acqua dolce, perché si può pescare bene nel fiume, e perché soprattutto il fiume è un elemento di grande incontro. Il fiume viene percorso dai battaglieri, dalle grandi chiatte che poi trasporteranno quel legno sul quale si innalzerà Venezia, addirittura dai boschi del Trentino. Quindi c'è un movimento ed una vita che veramente si riflette molto anche sui paesi che il fiume incontra andando verso il mare Adriatico. E a Bassano c'era un approdo particolarmente vivace per quelli che venivano dal mare, quindi contro la corrente del fiume, ma erano molto abili gli zattieri, e portavano il sale, perché il sale era un elemento di vita importantissimo, sia per insaporire le vivande, ma soprattutto per conservarle, per conservare la carne dopo averla affumicata, per conservare il pesce più a lungo per i mesi nei quali sia il fiume che il bosco davano meno agli uomini che vivevano in questi luoghi. Ma l'interessante è vedere come invece piano piano questa vita diventa vera intorno a questa piccola pieve, tanto è vero che avremo notizie di questo luogo dai placiti del Regnum Italiae con data 22 luglio 998. Quindi si parla in questa occasione di una specie di riunione di maggiorenti dei luoghi, ecco, che si fermano proprio in questa, vicino a questa pieve romanica di Santa Maria della Plebe, non lontano dal chiaro fiume Brenta, situata proprio in località Marniano. Questa data diventa la data di nascita della città, perché c'è uno scriba che annoterà addirittura quanto il notaio imperiale un certo Arnolfo definisce dei confini in giurisdizione tra Venezia e Belluno, e quindi lo storiografo, riportando quel fatto, riporta il documento e si parla appunto della pieve e del fiume, e siamo appunto nell'anno 998. È una cosa molto interessante. Perché? Perché intorno alla pieve la gente, in cerca di scampo dalle invasioni degli Ungari, erigerà ad un certo punto una fortificazione. Questa fortificazione che darà vita ad un castello, che io spiegavo sempre ai nostri bambini bassanesi, non è il castello della principessa Pirulina che manda giù le sue trecce per accogliere il principe azzurro, no, è un incastellamento che è molto diverso, cioè è un momento difensivo. E ancora, quanto resta di questo castello veramente racconta questa storia, perché sono delle mura alte, forti, che poi hanno uno strapiombo fortissimo ad ovest sul fiume Brenta, e quindi questo luogo è una fortificazione, una grande grande difesa. Perché? Perché la Pieve ha anche poi lo spazio di un cimitero e poi ci sono delle caneve, cioè dei luoghi come delle cantine, ecco, per poter mettere via quelle cose che in caso della scorreria non si possono portare, e quindi sono quelle che però garantiscono la vita nel momento che la scorreria finisce. Ecco, e non solo, ma ci sono anche i luoghi dove poter proteggere gli inermi, i vecchi che non possono fuggire, gli ammalati, e quindi queste persone vengono portate in questo luogo che viene chiuso dapprima da una palizzata e poi da alte mura fatte con i sassi del fiume Brenta, e che quindi proprio raccolgono e proteggono, e quindi sono la prima cerchia di mura di quella che poi sarà la città di Bassano, perché piano piano questi uomini forti, buoni, lavoratori capiscono che tutto quello che è dentro le mura è difeso, e quindi allargandone poi, facendo una seconda cerchia e poi una terza, nascerà verso la pianura, perché tutto sia più agile, la città di Bassano. Ecco, e quindi è una storia anche bella, che ancora oggi è molto ben documentata dai resti che abbiamo in città, perché il castello c'è ancora vivo e pregnante, perché è stato ben restaurato con le sue torri, con tutto, le torri d'angolo, e soprattutto questo senso che danno anche le piazze, per esempio, che corrono l'una contro, dentro l'altra, e che testimoniano però i valli che c'erano a difesa della seconda cerchia di mura, vero, prima della prima e poi della seconda cerchia di mura, per la nascita della città. Ecco, quindi tutto è un racconto molto ben articolato, che si presta bene a darci l'idea di questa urbs, come dicevano i latini, no? Proprio la città dei monumenti, il museo che vive. Ecco, mentre invece civitas è la cittadinanza, quindi la vita dentro le mura, nella quale si ricoverano gli animali di notte, nella quale le capanne hanno tetti di paglia, sono fatte di legno, le strade, addirittura loro si danno questi villici divenuti cittadini, si danno subito delle regole di vita perché tutto possa funzionare alla meglio dentro le mura, e difendersi soprattutto dagli attacchi dei barbari. Ed è così che questa, quando si racconta la città, proprio si può dare l'idea esatta di come le mura corressero, e come le piazze che ora ci sono erano extramenia, cioè fuori delle mura, e le chiese come la chiesa di San Francesco e la chiesa di San Giovanni erano extramenia, e poi c'erano i borghetti sparsi all'intorno. La terza cerchia di mura invece poi congloberà proprio in modo molto chiaro e netto proprio la visione della città. Ce ne daranno una bellissima immagine i figli di Jacopo da Ponte in una stupenda, dico veramente bella, carta, ecco, nella quale sono segnate le vie, le piazze, le porte, tutto ciò che era vera vita della città. Ecco, il fiume scorre al di fuori, dentro comincia invece una vita fatta di artigianato, piano piano la città diventa sempre migliore, c'è testimonianza delle prime case in muratura, per esempio, oppure testimonianza viva la fontana davanti a San Francesco, che era extramenia a prima, perché il vallo doveva proteggere le mura, e quindi veniva riempito addirittura di spine, di rovi. Ingegnoso. Ecco, sì, sì. E poi c'erano anche i portatori d'acqua, e dove ora c'è la fontana c'era una grande buca, diciamo, che doveva essere sempre riempita d'acqua, perché poteva all'improvviso scoppiare un incendio dentro le mura, dentro la seconda cerchia, e siccome i tetti appunto erano di paglia, così ci voleva immediatamente l'acqua. Straordinario. Sì, straordinario. Ecco, sì, sì. Raccontando queste cose e facendole e riempiendole di quella civitas appunto operosa che l'abita, e anche di tutte le presenze, diciamo, misteriose e fantasiose che ci sono ancora nei nostri racconti, nei racconti del passato, tipo un sanguaneo che faceva o un anguano, le famose anguane. Certo. Ecco, questi personaggi addirittura arricchiscono la storia della città e piacciono molto ai bambini, però si riesce veramente così a dare la visione vera di questo nascere di un luogo abitato in un certo modo e che poi ha le sue regole, ha le sue leggi. Ecco, oggi specialmente che tendiamo sempre a contestare tutto, ecco, io torno sempre ad insegnare ai ragazzi che la nostra libertà è tale se appunto siamo tutti rispettosi delle regole che altrui, ci impone, ecco, altrimenti non è più libertà. Certamente. Noi siamo arrivati a un'altra tranche, diciamo, e ascoltiamoci. Signora, è meraviglioso ascoltarla. Ma bellissimo, ma racconto affascinante. Guardi, veramente... conosco molto bene Treviso perché è stata la città del mio primo incontro con il Veneto. Ah, ho capito. Ecco, quindi la conosco bene, mi piace molto. Bene. Perché anche lei è un urbs importante, quindi sì, di conseguenza anche una città di gente civile. Ecco, poi la scelta di questo Bastano del Grappa fu invece data da un matrimonio, quindi qui sono rimasto, qui vivo da 60 anni. Bene, signora, adesso ci sentiamo, ascoltiamo una canzone e poi ancora vediamo ancora con lei. Benissimo. Ecco. Allora, adesso, cantata da Frank Sinatra, ci ascoltiamo September Song, la canzone di settembre. So long, long while from May to December, but the days grow short when you reach September and the autumn weather turns the leaves to flame, and I haven't got time for the waiting game, and the days dwindle down to a precious few. September, November, and these few precious days I'll spend with you, these precious days I'll spend with you. And the days dwindle down to a precious few. September, November, and these few precious days I'll spend with you, these precious days I'll spend. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra signora Elide Imperatori Bellotti. Signora, siamo qua. Eccomi. Allora, dunque, abbiamo parlato dei luoghi, abbiamo parlato della nascita di questa città, che mi sembra, mi auguro di aver almeno ben delineato. Ci incuriosisce ancora di più. Ecco, e naturalmente non possiamo dimenticare la gente. Io amo molto la gente, amo stare tra la gente, e i miei 60 anni fra i bassanesi sono stati talmente buoni che io non posso che dir benone di questa piccola città. Ecco, allora l'ho sempre immaginata, e ne ho anche la testimonianza dalle ricerche fatte, come persone sane, belle, che hanno lavorato alacremente, che hanno sognato come abbiamo sognato tutti noi e anche cantato. E il cantare di queste persone io l'ho tradotto quando scrivevo le storie della Pieve, per appunto raccontare ai bambini la nascita di Bassano, l'ho raccontata in delle filastrocche che hanno segnato un po' molto anche la mia veneticità, cioè del mio saper stare fra gli altri in modi diversi, cioè anche così rallegrandomi di cose serene e buone. E allora la prima filastrocca che io ho scritto, non è la prima del libro ma è una delle tante del libro, raccontando di uno sposalizio fra due villici, una giovane che si chiama Maretta e il suo sposo che si chiama Pietro, che sono poi i protagonisti, insieme al loro bambino che è Daniello, perché un libro per bambini deve avere come filo conduttore la vita o i pensieri di un bambino, ecco, e ho scritto la filastrocca Parisposi, che diceva così: curisente, curi qua, cantaremo un tralala, cantaremo par sta sposa, bea sì, cofana rosa, cantaremo un trallallero par sto sposo, forte e fiero, trallallero trallala par sta bea copia qua, su, battemo forte le mani par si sposi bei e sani, e per quei che vegnarà, coi sarà mamma e papà, trallala trallallero vegnarà prima un puteo, e poi subito chissà, natoseta na sarà, viva, viva par sta sposa, bea sì, cofana rosa, trallallero trallallà, par sta bea, coppia qua. Questa non poteva che essere così una specie di canto in giro tondo di tutta la gente di questo piccolo luogo che si radunano per un matrimonio. Che bello! Ecco, e poi la seconda filastrocca che invece io scrivo è la filastrocca della nanna. Filastrocca della nanna naturalmente non può essere che una di quelle che cantano i papà e le mamme, o le mamme per i loro bambini quando stanno per addormentare. Sì. Allora, fa la nanna corosin, fa la nanna picenin, fa la nanna mio tesoro, bel gnareto tutto d'oro. Vien dal cielo un anzuetto per portarti un bel panetto, vien dal bosco un sanguaneo per donarti un bel aneo, ma se arriva fa d'anguana per rubarti un po' de nanna, qui l'aspetta il tuo papà, par si garghe, via de qua brutta mostriscia, va a brenta, par la rissa, fa la nanna, corresin, fa la nanna, picenin. Che bella, molto bella, molto bella. Ecco, la mia veneticità si è espressa in questo modo, nei confronti proprio del buon parlare e soprattutto dei sentimenti che poteva avere questa gente. E per i bambini credo siano fondamentali queste cose. La terza è invece, perché ne ho scelte quattro per questa volta, la terza è la filastrocca del risveglio. Allora qui è una mamma, è questa mamma che accorre al richiamo della bimba che si è svegliata, che è così tutta agitata perché si è vista sola, perché la sua mamma è fuori nell'orto che sta vangando, che sta lavorando, e la mamma la prende in braccio e canta così: filastrocca del risveglio, sta bocchetta se versa sbadiglio, via e lagrime da stioceti chiari, dolci, benedetti, moesine ste manine coi dita picenine, Isidoro sti risetti, con farose sti lavretti, per le rare sti dentini, dea mamma sti penini, dea mamma e del papà, zè sta bea putina qua. Che belle, che sono, che dolci, che, ecco, che tenere che sono. E l'ultima è la filastrocca del mattino, nella quale io immagino invece il figlio maschio che va a pescare con il padre, cioè il padre che deve renderlo edotto su tutto quello che egli deve imparare per poter sopravvivere e essere a contatto della natura con gioia. Quindi il padre porta con sé il bambino, che è già diventato grandicello e che quindi già impara a pescare. E la filastrocca del mattino dice così: filastrocca del mattino, fortunase quel putino che su al fiume va a pescare col suo bravo e savio pare. Bondì al cielo, bondì al sole, bondì ai praia e vioe, bondì agli alberi svettanti e agli osei sempre festanti. Bondì fiume, grande amico, ti ringrazio e benedico. Che belle, veramente belle. E poi voi le cantavate, cioè qualcuno vi faceva la musica? Alcuni l'hanno fatta, cioè qualche mamma. Io poi ho avuto anche un premio per un libro di filastrocche intitolato Filastrocche tra sole e luna. Sì, sì, e una volta ho incontrato una mamma la quale mi ha detto: lo sa signora, io con la chitarra canto tutte le sue filastrocche alla mia bambina. Beh, questa è un'idea molto carina. Esatto, grazie. Sarebbe da fare una sinergia, da registrarle. Grazie per averle messe in musica. Io le ho scritte, voi le avete messe in musica, certo. Bravi. Certo, certo. Ecco. Comunque, allora, questo, come dicevo poco fa, per ricordare come la nostra gente sia sempre stata, io penso, buona, serena. Questo è stato un luogo bello di vita. Io adesso le dirò, sono molto triste, perché gli eventi che stiamo vivendo non ci danno certamente le speranze che forse avranno avuto invece questi villici, queste persone, certo, poverine, ecco, così attive. Ecco. Però bisogna anche essere gente di speranza. Certo. Allora, ecco. Dicono che la speranza sia l'ultima. In questo momento, quando così parlo con i miei amici, con le persone che mi vogliono bene, perché ormai sono diventata la nonna Elide di Bassano del Grappa. Ecco. Data l'età non può che succedere così. Ecco, la nonna Elide. Io dico sempre: abbiate speranza, coraggio, coraggio, non dobbiamo abbatterci, no? Abbiamo avuto tempi ben più tristi, perché niente può essere più triste di una guerra, di un genocidio, certo, di un martirio, come testimonia la nostra città. Risorgeremo ancora una volta. Allora Bassano è morta e risorta quando c'è stato il fatto dei martiri del Grappa, esatto. Ecco, più di così. Quindi allora io dico: dobbiamo avere speranza, certo. Andiamo avanti, cerchiamo di essere ugualmente, soprattutto dei buoni cittadini. Esatto, ecco, e perché la allora prossima questo volta ci darà ragione. Allora signora, la prossima volta avremo una cosa interessantissima, che è la ballata del millennio, ecco, oltre ad tante. Sì, allora, sì, allora parleremo del millennio, visto e considerato che adesso della nascita della città abbiamo parlato, e anche un po' di questa civitas intelligente e buona, della quale io sono molto fiera. Assolutamente, concordo con voi. Signora, grazie di tutto, e la ringraziamo per la prima trasmissione. Esatto, è stata una cosa estremamente interessante. I vostri ascoltatori. Grazie signora, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Grazie. Eccoci, ringraziamo tanto la signora Elide, nonna Elide come la chiamano a Bassano, e adesso andiamo con la quarta canzone in programma, che è cantata da Johnny Dorelli, Era settembre. Settembre e la pioggia cadeva, era settembre e il tuo viso piangeva. Noi c'eravamo lasciati senza dire parole. Non ricordo perché, era settembre e l'estate moriva, era settembre e un amore finiva. Io ti vorrei rivedere, ti vorrei riabbracciare, era un settembre senza di te. Senza dire parole, non ricordo perché, era settembre, quanto tempo è passato, era settembre, ma qualcosa è cambiato. Sai che ti amavo, perché sai che ti amo, era settembre e tornavi da me. Eccoci di nuovo in studio. Oh, adesso qui abbiamo, che prima l'abbiamo salutata, la signora Nadi Vettori, che è una cugina di un grande poeta bassanese, visto che abbiamo parlato di Bassano, e l'abbiamo invitata perché così che spenda due parole e magari legga qualche poesia. Ma qui abbiamo anche un breve curriculum del poeta Gino Pistorello, che adesso Antonio magari vi legge due righe. Una sintesi. Allora, Gino Pistorello è nato a Bassano il 29 gennaio del 23 in Angarano, antico borgo sulla destra del Brenta. Si è trasferito poi sull'altra sponda del fiume e vi rimase per circa 30 anni per fissare la dimora in via Gamba. Fin da giovane amò lo studio di letteratura e scienze e si avviò ai primi passi nel comporre poesie e far pittura, incoraggiato dalla mamma. Conseguito il diploma di scuola superiore, fece il militare e poi sposò la sua Giannina, Giovanna Rodighiero. Negli anni 50 e 60 raccolse molti consensi e premi nel campo della poesia e della pittura. Fu tra i protagonisti dell'unica edizione del Premio Bassano di poesia in dialetto. Fu invitato a partecipare alla Biennale di Venezia, dove espose nel padiglione Arti Decorative, e finì tra i fondatori del Circolo Artistico Bassanese. Nel 61 pubblicò la sua prima opera di poesia, Strissi e Ciacoe, che gli valse considerazione e apprezzamento da parte del mondo culturale. Altro riconoscimento lo ottenne nel 70 quando uscì tra i vincitori del premio Abano. Il poeta Diego Valeri, nel consegnargli il diploma, lo accompagnò con un plauso di accoraggiamento. Gli anni 70 furono felici di creazioni e pubblicazioni con un'antologia, eccetera. Il Gino fu il primo presidente di giuria del premio Poesia e Satira Acque Slosse, di cui conseguì il massimo premio dell'Alfiere d'Oro nel 97. Scusa Nadi, Acque Slosse cosa sei? Cos'è un circolo? Beh, è un circolo, sì, è un'accademia, diciamo, di che appunto molte persone scrivono e mandano da tutta Italia questi dialetti. Ecco, praticamente portano soltanto che poesie in dialetto. Ho capito. E in questo periodo arrivano anche delle poesie in italiano, che mi sembra che il presidente sia Nicola Parolin, ma però soltanto che dai giovani scritte in italiano, per il resto sono tutti dialetti italiani. Tu ricordi con molto affetto questo tuo cugino? Sì, che è morto quando? Nel 98? No. Nel 1998. Poi nel 2008 praticamente le hanno dedicato un parco, appunto lì a Bassano, a San Vito di Bassano, che poi a pochi, direi, non è centrale, ma a pochi chilometri così di Bassano, diciamo. So che tu sei andata a quella manifestazione, mi ricordo. Sì, certo, sì. Certo, è stato commovente, ricordandolo appunto, c'erano diverse personalità che l'hanno ricordato, fra cui quanto ha letto il signor signor Antonio, e l'hanno ricordato e lo ricordano sempre, e c'è anche un libro scritto delle sue poesie edite e inedite, curato appunto dal professor Nicola Parolin. Ho capito. Ecco. Tu, io proprio sì. Sono veramente così ammirata da come tu leggi le poesie di tuo di questo cugino. Mio cugino. Sì, sì, effettivamente. Amatissimo. Ecco, allora, vuoi darci un saggio così? Sì, ecco, visto che la signora appunto prima ha parlato di Bassano, io vorrei introdurre questa poesia che ha scritto Gino Pistorello al suo Bassano. Dunque, il titolo è Bassan, città del vento. Do anzo e de aria, coi trombe d'argento, suonava strane storie in paradiso, su piando pian e forte, forte e pian, così è nato il vento, nella gran bocca verde della montagna, che basa il mio Bassan. Adesso è sta di casa, ma sberla, sberla buona, su più san, che spaure i caivi, che lustra i contrade, che sburna sui costi del monte, scavigliando gli olivi, e slonga sbattucciar dei campane, né a notte d'inverno, nel camin, e ciacque del vento, e par storie lontane. El siga, el sona, el pianze, el suppia, el parla. A foia zaia e il nino è a sospesa, e il suga estrasse di apporzente, forse è il fia di Dio che disegna quei nuvoli e fiabe, ogni soio di niente, dove si cuna dentro, nasisia. Che belle immagini, vero Antonio? Molto bello. Oh, sono delle immagini stupende. Profonde. Grazie. E vorrei dire che la sisia, appunto, magari non tutti sanno che è la rondine. Esatto. Ecco, esatto. Io per esempio te l'ho chiesto, non lo sapevo, visto che non sono veneta. Sì. Allora, proseguiamo con... Vuoi che ne nega un'altra? Sì, sì, vai, vai, fa piacere. Sì, sì, certo. Allora io direi di... Vai, prosegui con quelle di che... leggere... quella del funerale, ah, che sì, è piuttosto... Sì, sì, sì, sì, un po' che non fa piangere, fa piuttosto ridere. Allora, è il funerale. Chi verse il funerale? Erse il capo becca morti, col muso di occasion, e a barretta de mezzo generale, do fie de orfanei, che i partanti granei, do fie de vecchi che savaria, e un prete coi accota, che ogni tanto il borbota, ghirlande, fiori de sora del careto, oh, il gerobon puarretto, anima santa e pia, e il gero un angioito, requiem eterna in pace così sia. Sior Beppi, come vai a quei cai? Me par che da Tunin, ah, sono stato proprio giri, i gabbia cambia vin, così tra pianti e lagni si arriva agli alberetti. Cosa che par, sior Beppi, adesso è il gavarà finio sto mostro qua da drio de pestarmi i calcagni. Requiem eterna in pace così sia. È molto, che bella, è molto simpatica. Un approccio decisamente simpatico. Sì, è proprio come succede ai funerali, Requiem eterna, ma intanto parlano di loro. Intanto parlano tra loro, prima dicono che è un angelo, il povero morto, e invece dopo magari tirano fuori le cose che... Sì. Com'era il nostro Gino? Com'era come Il nostro Gino era un po' un personaggio, diciamo, prima di tutto... Era un alpino sfegatato, che poi andava sempre quando che facevano la festa degli alpini, però logicamente ci hanno detto che gli alpini bevono. Ecco, e allora praticamente lui beveva un qualcosa in più e raccontava barzellette, però era conosciuto per una bravissima persona. Ecco, era un artista nel vero senso della parola, perché quello che sentiva di dire lo diceva con animo. A me piace, piacciono le sue poesie, perché hanno quella vena di... non di tristezza, di, proprio così di satira. Di satira, e quindi che... ne possiamo leggere un'altra? Sì, ecco, allora vorrei leggere La montagna del grillo. Ah, sì. Allora, mi andavo come mamma, ricordo dopo scuola, verso una montagnoia, una scianta foraman. E a me pareva sta montagnoia nana, granda forse una spana, una gran montagna vera, la montagna del grillo. La che aveva battesata perché dentro che stava un grillo nero nero, frugnando ne a tana con un tocco di bacchetto, ciapà mi gosto un griglietto e a casa e ho go portà. E mi e a mantenere sta pora bestietta dentro de una gabbietta quei foglie di radicio. Ma un giorno verso sera non go sentio il canto, ricordo che go pianto, e il grillo è già era morto, e sate verso il cielo dove a prima stea che faceva da candea e a camera ardente. Ho fatto il funerale dentro una cassettina de solfo de cucina, in pitturia di nero, con sura scritto grillo. Basta sta paroeta, chi non sa del poeta, de noti di sta. Adesso il dorme quieto, de sotto lo smarì, con sura il suo cucin de rosette de siesa. E forse è sogno ancora, che torne primavera su una montagna vera, forse beato io. Ecco, insomma, qui siamo, fantastico, stiamo veramente concludendo con questa immagine bucolica, così direi che sono delle immagini stupende, mi sembra però, che siamo partiti con il piede giusto. Beh, insomma, come penso, nuova, io spero veramente, se ci sta un'altra poesia brevissima c'è quella del fiume, sì. Allora vogliamo dire che anche questa fa ridere. Sì. È brevissima. Bene. La fabbrica dei vermi. Ah, sì, sì. A me fa ridere pensare che in fondo siamo tutti uguali. Gente del lusso, becchi, cardinali, servi, paroni, conti, lavandare. E il grasso, quella panza in sospensorio. Il re del lardo e quello del butiro. E il magro che me parna appena biro. E a ganga che sta a Monticitorio, e il furbo che sa tutto par dispetto, e il mona che non disegna un capan, a Sioretta in peisa di Stracan, e il matto che se crede un rubinetto. Onorevole mio, oh non so che dire, che dice cavaliere? Ah, ma l'onore è tutto mio, signor commendatore, ma non vedi dove se va a finire una buona untada di olio degli infermi, quattro sospiri, è un sciocco. E ciao, mia cara, vestia de peso mi, ti denogara, ma soci nella fabbrica dei vermi. Cioè, il povero ha la cassa da mi richiama per certi versi il grande principe. Sì, Antonio, sì, De Curtis, l'ho detto io quando l'ho sentita, difatti. E niente, qui okay. Stiamo proprio arrivando agli ultimi brandelli di questa prima avventura, diciamo, è stata della una nuova bella stagione. Mi è piaciuto. E mi convinco sempre più che insomma, riusciamo forse a dare quella. A dare un qualcosa di serenità o qualcosa, e perché bisogna che riusciamo a riprendere le redini di noi stessi, questo è fondamentale, certo. In questo mondo smarrito e compagnia noi dobbiamo riuscire a venire in qua, diciamo, noi dalle nostre parti. Hai sentito, Antonio, che il grillo è stato da Pistorello nominato il poeta dell'estate. Assolutamente. Ma che bello. Non potrei trovare qua una migliore definizione. Ah, ecco. E allora così siamo allora, giunti Nadi, veramente agli ultimi sprazzi della nostra trasmissione, e ringraziamo la nostra ospite, naturalmente. Grazie a loro. Grazie Nadi, grazie di essere stata nostra ospite. Ringraziamo naturalmente i nostri ascoltatori e ascoltatrici, sperando naturalmente che siano soddisfatti di come abbiamo preso la brivio. Beh, insomma, speriamo di sì. Comunque noi diamo l'appuntamento alla prossima domenica. Ciao ciao.